Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Ultima puntata dei magazine dell'anno 2023, ci risentiremo poi nell'anno successivo, non mancheranno anche gli auguri di buone festività e intanto che iniziamo, visto che siamo a tema di festività, un pranzo però a teatro e qualche anno fa, precisamente 1728, siamo a Venezia e siamo a pagina 21 della Domenica del Sole 24 ore, nelle festività, nello stacco estivo, mi manca. Mancano i magazine per la compagnia nel weekend, per la curiosità di selezionare alcuni articoli che indubbiamente solleticano la curiosità, la specificità. Ad esempio, un po' di teatro, ma nello stesso tempo un pranzo quanto mai sontuoso. E pensate che 1782, quindi nel giro di 20 anni la Serenissima sarebbe caduta, però non si sono fatti mancare nulla. In occasione della visita di nobili russi, tra cui il futuro zar Paolo I, figlio di Caterina la Grande, insomma, quello che viene riportato da un artista, Gabriel Bella, in questo rinascimento, se vogliamo, veneziano ormai già andato da un po', beh, viene ripreso alla Querini Stampalia, una delle pinacoteche più belle della Serenissima, di un pranzo al Teatro San Benedetto. Sovrani a tavola, ma a teatro. E questo è qualcosa che per la prima volta capita mettendo assieme queste due realtà. Gli invitati ovviamente sono tantissimi, sono sul palco, ma nello stesso tempo anche sulla platea, sui loggioni, e non è uno spettacolo, ma allo stesso tempo diventa uno spettacolo. La particolarità ovviamente è che dopo verranno tolti i tavoli e si darà il via alle danze, però l'immagine di trovare questa meraviglia, questo spettacolo che viene definito spettacolo sociale su un palcoscenico, è una sorta di intersezione di intrattenimento e allo stesso modo di qualità, che è una frontiera che verrà aperta, sospeso fra privato e pubblico, con un importante ruolo simbolico sin dall'antichità. È una rappresentazione, sì, dello stato, della ricchezza, ma nello stesso tempo anche di due espressioni artistiche come l'arte figurativa e il teatro, senza dimenticare che siamo nel 1728. Non poteva che capitare a Venezia, nonostante il periodo ormai di decadenza. Tutto questo è ritratto insieme ad altre opere a tema in una esposizione alla Venaria di Torino, che è il rito del mangiare, dove vengono ritratte queste situazioni nelle svariate accezioni, insomma, e anche nelle particolarità. Gli artisti chiaramente sono impegnati a dover mettere assieme, oltre che la selezione portata da curatrici e curatori, perché è una mostra molto estesa quella alla Venaria Reale di Torino, e mettere insieme, oltre che l'estetica, il contenuto che riporta sia il teatro o il palcoscenico in generale e il consumare un pranzo assieme, insomma, direi che è una sensazione e un'ispirazione artistica che certo lascia molto all'immaginazione e poi nella concretezza e nella capacità di rappresentare tutto ciò, ovviamente un certo talento. Deve essere un'esposizione che, capisco la lontananza a Torino, però insomma, quando si viaggia anche per motivi di diletto o per motivi di stacco natalizio, beh, chi ne ha la possibilità indubbiamente è qualcosa, secondo me, da non perdere. Lo spettacolo sociale della Tavola Reale. Siamo a pagina 21 della Domenica del Sole 24 ore. Abbiamo parlato di teatro, in questo caso con il convivio e con il pranzo, ma non finisce qui, perché il teatro sarà nuovamente protagonista, sempre sul motivo di incontro e sempre sulla Domenica del Sole 24 ore. Truth and Power, sempre per Soul Society, diversi dischi della Soul Society oggi in playlist. E come ho detto, il teatro e il pranzo che si è tenuto a Venezia nel 1728, ma la luce e l'arte figurativa che ne è stata ritratta è la stessa luce invece che colora il melodramma, sempre a teatro con le opere. Invece a Bergamo, all'Accademia Carrara, sede espositiva che è stata ampliata, anche questo tra l'altro più vicina a noi e indubbiamente meritevole di una visita, grandi quadri che hanno come protagonisti i personaggi dell'opera, che restituiscono ambienti e costumi quanto più aderenti alle epoche rievocati. Esattamente, è andato anche a inizio 800, ricordo, lavori di Hayez che riprendono i personaggi delle opere. Il bacio di Hayez è un Romeo e Giulietta, è presente con capolavori in cui le figure hanno sembianze di amici o di persone prestate a fargli da modello. Quindi, vabbè, questo è un aspetto anche abbastanza consueto, la compagna o amante di Hayez molte volte è stata anche sua modella per rappresentare questi protagonisti, e si spera che il pubblico di questa esposizione si cali nei panni di quello di allora, che si emozionava di fronte alla rappresentazione pittorica degli stessi eventi o dei personaggi rievocati nelle pagine dei drammi e dei romanzi storici o delle opere di Schiller, di Lord Byron, di Walter Scott, e che sembravano vivi, grazie agli attori e ai cantanti che li incarnavano sui palcoscenici dei teatri. E sicuramente il confronto tra il melodramma e la pittura di storia costituisce questa chiave privilegiata di interpretazione, e apprezzare questi dipinti, ora poco frequenti nei nostri musei e raramente presenti alle mostre dedicate all'Ottocento, che privilegiano appunto la seconda metà del secolo, sfruttando la popolarità inossidabile di alcuni artisti come tra i Macchiaioli o gli impressionisti, e rivivere, pensate, per l'epoca tutto ciò era come sentirne la narrazione. Si dice, no? Allora sì, ho visto il film, ho letto il libro, è ovviamente più bello il film, però anche il libro è fedele o meno, ne riporta alcune caratteristiche più o meno la situazione. Ho visto l'opera, poi ho visto anche questa esposizione, ho visto anche la tela che le rappresenta, sì, però, ed è un raffronto che è letterario e allo stesso tempo visivo, come vi è tra l'opera e la pittura in questo caso. Hayez è uno tra i maggiori protagonisti in questo parallelismo, che ai giorni nostri potrebbe essere tra aver visto un film e averne appunto letto il libro. Potrebbe capitare anche il contrario, anche se è poco sovente, però potrebbe esserci un'opera che poi ha ispirato una scrittura teatrale, perché no? E questo viene riportato dalla Domenica del Sole 24 Ore a pagina 15 per l'arte, la luce che colora il melodramma. Thank you. questo Cambio Magazine, dopo aver ascoltato parte di En Bleu Et Moi, Precious Spirit, I Wanna Dance, il brano che ancora sta andando come base. Come ho detto, abbiamo parlato di arte figurativa, di pranzo, di teatro, un aspetto fantastico e di convivio, di espressione artistica, e arrivo ai giorni nostri. Come ben sapete, alla sera di domenica è arrivata in proposta televisiva che ho, per così dire, anch'io, anche se non utilizzo il mezzo TV, ma per motivi personali ho passato serate per alcuni tratti, poi ovviamente non posso seguire fino al termine perché mi alzo prestissimo, quindi per alcuni tratti la riproposta al completo della saga Harry Potter. Non mi piacciono le saghe, non mi piace il fantasy, questo già è stato esplicitato più volte. Quello che di Harry Potter, il maghetto che è stato riproposto appunto in queste serate di domenica, mi ha lasciato coinvolto è la scenografia, è l'ambientazione, sono gli effetti speciali. Poi ho provato un pochettino a seguire determinati intrecci e trama, ma fondamentalmente sono battaglie, ecco, ed effetti speciali. E per quello che è un'officina di costruzione di tutto ciò, è veramente una particolarità magica di disegnare questo mondo che Hogwarts e da Repubblica col suo inserto Robinson, i due protagonisti, Mirafiora Mina, Mirafiora che già ha un nome da maga, e Edoardo Lima invece, che da anni formano una coppia collaudata che sul set dei film e nelle edizioni speciali dei libri rende concrete queste meraviglie. Eh sì, perché si tratta di meraviglie dell'immaginario di Harry Potter. Lo studio per curiosare sono entrati a corrispondenti di Repubblica per uno studio londinese, dalla mappa del malandrino che come ben sappiamo è ispirata a vecchie mappe di Londra, e dal quotidiano. Chissà se avremo tra i nostri magazine anche l'inserto culturale della Gazzetta del Profeta, e qui alcuni tratti, alcuni disegni e alcune parti di lavorazione molto particolari. È un long format che arriva fino a pagina 6. Sicuramente, siccome potete trovare Robinson in edicola per tutta la settimana, aspetto che consiglio veramente a tutti gli appassionati di magazine di prendere, e vorrei veramente che tutti i magazine avessero la presenza in edicola fino al numero successivo. Alcuni ovviamente lo fanno, come Robinson di Repubblica e la lettura del Corriere della Sera. Attenzione, allora, qual è il collegamento anche in questo caso per quanto riguarda la famosa saga fantasy e allo stesso tempo quello che abbiamo riportato? Certo, i collegamenti ci sono sempre comunque, ma quello che mi ha portato così nella specificità è del convivio. Allora, in Harry Potter, soprattutto nei primi due episodi, io ho notato che mangiano in continuazione, ma non è che fanno uno spuntino, ci sono questi tavoli imbanditi di ogni ben di Dio, spero che sia cartone o che siano finti oppure che siano andati consumati. Ci sono queste portate di dolci, di pasticcini, di bevande magiche, di torte, di tutto quello e di tutto e di più si possa immaginare. Ma questo capita durante queste soventi riunioni, soprattutto nei primi tre episodi, questi ragazzi mangiano in continuazione. Siccome in ogni aspetto di narrazione di grande successo vi è sempre il messaggio sotteso, non è che tutto ciò è contro una sorta di inappetenza che adesso, o di scarsa attenzione per il cibo, sempre più orientati verso un McDonald's oppure il poke oppure il sushi o quant'altro, ovviamente con la qualità dubbia, e quello che è il cibo spazzatura, il junk food e via discorrendo. Invece ci sono portate assolutamente forbite, anche esteticamente portate in maniera esteticamente perfetta, ecco, questo è una cosa che mi ha colpito. Ho detto, appunto, è come essere a teatro e veder consumare un pranzo luculliano, ecco. La magia tornerà, la magia dello spazio e ovviamente dell'astronomia nella seconda parte dei magazine, perché poi anche in questo caso collegarsi con un altrove nell'universo è un attimo e ne parleremo. Prima però c'è stato un articolo che mi ha attirato la mia attenzione sul mondo del calcio e su un protagonista recentemente scomparso. Pensate un po', parleremo di calcio dopo la pubblicità. Il protagonista è Antonio Giuliano, centrocampista del Napoli, che ha giocato una quindicina di partite anche qui a Bologna, personaggio che quando nella seconda metà degli anni 70 seguivo il campionato, insomma, della massima serie, certamente è stato un protagonista e un esempio di professionalità, un esempio di abnegazione, competenze e quant'altro, oltre che atleta di talento. Quando ne ho visto un reportage di una pagina intera, ecco, qui devo assolutamente conversare con chi è più sia appassionato che competente e magari riusciremo a tirare giù dal letto Sergio Fanti. Tutto ciò tra qualche minuto dopo la pubblicità sui 103.1 Magazine del lunedì. Questo blues alle 8:32 minuti puntuali o quasi con i magazine odierni, beh, è un excursus di quelli che piacciono a me, con intersezione con altri redattori di Radio Città Fujiko, grazie all'articolo, un articolo dedicato a un campione, Antonio Giuliano, un calcio sparito. Ho pensato a due cose: innanzitutto il fatto che in quegli anni un pochettino seguivo, anzi direi che seguivo, poi qualcosa è cambiato, guarda un po', sembra ragionamenti del Mood Groove, ma le attinenze le cercheremo con Sergio Fanti, che è qua al telefono con noi. Buongiorno Sergio. Buongiorno, buongiorno. Hai detto Totonno c'è, e quindi anche tu Totonno c'è, certo. Seguivi l'abnegazione di questo grande professionista. Beh sì, è stato uno dei grandi protagonisti della Serie A quando ero ragazzino e seguivo il calcio. Quando eravamo sì. Eravamo molto giovani e per me chiaramente uno di 30 anni era un'età veneranda, era una specie di personaggio mitologico. E poi vabbè, c'era anche tutta una poesia un po' diversa, perché ad esempio io ero un cacciatore di autografi, mi ricordo che le squadre di calcio venivano all'Hotel Garden, che adesso non c'è più, in Via Rame. Sì. Adesso c'è, mi sembra, la Fideuram, ma non so esattamente, un istituto bancario comunque. E questo già la lascia intendere alla lunga. Sergio, mi sei sparito comunque, eh? Pronto, prova. È caduta la... No, ci sono, scusami, okay. Avevo messo in muto con la guancia. No, stavo dicendo appunto che le squadre di calcio venivano all'Hotel Garden e sicuramente avrò chiesto un autografo anche ad Antonio Viviano, certo, che era il capitano del Napoli. Sì, il Napoli Bruscolotti, il Napoli che non era certamente quello di Maradona, ma che allo stesso tempo ha aperto le porte. Era un Napoli forte, perché però c'era Zoff in porta, sì. C'era Zoff, c'era Pogliano, c'era Improta e c'era appunto Giuliano. No, era un Napoli forte che non ha vinto lo scudetto, però spesso lottava per lo scudetto. Sì, e allo stesso tempo, visto che mi perdo a far conversazione con te su questi anni, perché ne hai una visione come io della pallacanestro, che non è passatista, ma allo stesso tempo è un'analisi, se vogliamo, per notare anche diversi cambiamenti in tutto ciò. Nel calcio di Giuliano e nel calcio di adesso, siccome devo capire anche in altri ambiti, e ogni volta io ammorbo ascoltatrici e ascoltatori sui cambiamenti in ambito cestistico, in ambito calcistico invece, Sergio? Beh, il calcio è cambiato veramente moltissimo. Adesso si usa dire, quando ci sono il passo del tempo e quindi ci sono dei cambiamenti, è cambiato tutto completamente, eccetera. In genere si usano delle iperboli anche esagerate, appunto, in quanto iperboli, però il calcio è cambiato molto, perché allora si giocava a uomo. Adesso già da molti anni si gioca a zona, e vedere una partita di allora è un altro calcio, nel senso che comunque il personaggio veniva lasciato più libero di giocare, per quanto marcato anche ossessivamente, però non c'era questa frenesia che c'è adesso, che uno prima ancora di ricevere la palla deve già avere pensato a chi darla, perché una frazione di secondo dopo l'uomo addosso. Certo. Era un calcio sicuramente dove chi aveva delle doti tecniche poteva emergere di più, anche se non era un grandissimo atleta. Penso ad esempio a Gianni Rivera, che probabilmente nel calcio di oggi avrebbe tantissime difficoltà, lo immagino. Avrebbe tantissime difficoltà, probabilmente. Sì, forse sì. Non avrebbe nemmeno fatto il calciatore, paradossalmente. Certo. E Giuliano invece era uno forte. Una stazza fisica, anche, insomma, un giocatore importante. C'è una nota su di lui che mi ha colpito molto, da compagni di squadra, testimonianza per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Quando davi la palla a lui, sapevi sempre che era depositata bene, sapeva sempre poi come trasformare in qualcosa di utile il pallone tra i suoi piedi. Dava una certa sicurezza, e immagino che questo corrisponda anche a una tua analisi. Sì, beh, lui era, è un'osservazione, lui era il classico regista, quello che appunto quando aveva il pallone sapeva come impostare l'azione e spesso sapeva come servire le punte. Sì. Quindi è un giocatore allo stesso tempo completo. Io almeno lo ricordo nel 78, il periodo in cui seguivo, che è stato autore di un gol contro il Torino, ha giocato 14-15. Sì, è venuto qui a Bologna. Bologna a terminare la carriera. A terminare la carriera, sì. Scompare a Bologna, quindi recentemente scomparso, e porta con questa realizzazione la sicurezza per la stagione 1978. Quindi ha lasciato anche nella città felsini, ha indubbiamente un buonissimo ricordo. Sì. Perché ho voluto questa conversazione? Perché secondo me lui è una delle bandiere di quel calcio che, certamente, ma infatti ci perdiamo a conversare io e te. mi fa piacere che ne abbia parlato nei magazine, che normalmente sono riservati ad ambiti più propriamente intesi come culturali, ma il calcio in effetti è questo grande romanzo popolare che sicuramente fa parte della cultura, anche se non in senso aulico, però comunque è un catalizzatore. Caso qui, mi permetto di dire che della cultura ce n'è, nella storia anche di questo atleta, che oltre che aver dato uno stimolo era considerato, se vogliamo, un esempio di una Napoli che non cadeva negli stereotipi. Pensaci. Io non ho letto quell'articolo Lo leggerai. Lo leggerai. sì, grazie. Ma lui era un napoletano, sai gli stereotipi che noi abbiamo, no? Lui era un napoletano serio. Un napoletano serio, cioè... Ecco, però questo dimostra che sono stereotipi, no? Appunto. Insomma, non sempre, diciamo. Comunque lui era un napoletano serio, nel senso che della napoletanità aveva la battuta di spirito, la positività verso la vita, ma era anche integerrimo per quanto riguarda le questioni di lavoro, e anche da dirigente, infatti. Quando riuscì a portare Maradona a Napoli, fu una trattativa estenuante, una trattativa di 2 mesi, una trattativa che c'era da darla persa praticamente. Invece lui ha insistito moltissimo, e da questo punto di vista, ecco, adesso non vorrei esagerare perché c'è anche un po' così l'amore per il calcio, però credo che abbia fatto davvero un'operazione culturale, nel senso che l'intreccio tra la città di Napoli e Maradona è stata veramente, è stato un amore enorme, che credo non tramonterà mai, e per quanto anche recentemente Bergoglio abbia detto io preferivo Pelé perché per me Maradona come uomo ha fallito, per i napoletani non ha fallito niente, perché infatti sì, comunque... capisco anche il punto di vista di Bergoglio, che anche dal suo pulpito deve dire ci vuole una certa rettitudine nella vita e non buttarla via, però i napoletani si sono sentiti investiti di un amore assoluto da parte di Maradona e lo ricambieranno sempre. E tra questi, questo è stato Giuliano, sì. È stato Giuliano il coautore di tutta la trattativa. Certo, e come ho detto anche un bel esempio per abbattere gli stereotipi con la sua abnegazione, professionalità e continuità, oltre che un talento naturale che l'ha portato sui palcoscenici, visto che parliamo di palcoscenici, più importanti in ambito di calcio e non solo nazionale. Io Sergio ti ringrazio tantissimo. Ma io ringrazio te, è stata una bellissima sorpresa. Ogni tanto quando ho qualche rigurgito emotivo sul calcio dico ma tu cosa ne pensavi di, ecco, in questo caso chissà Sergio cosa, quali sensazioni ed emozioni può portare. Sì, ma infatti abbiamo avuto percorsi abbastanza simili, perché tu mi confidi spesso che fai fatica a seguire il basket di adesso. Non ce la faccio. Come io seguo così un pochino il calcio, guardo il gol, però non è quel calcio lì, adesso poi ci sono diventati procuratori, è diventato proprio, lo si diceva già allora che c'erano troppi interessi. Pensa un ma po' ad esempio all'epoca di Giuliano non c'erano nemmeno gli sponsor, quindi capisci che e poi si giocava con i numeri dietro la maglia attinenti al ruolo, che per me era fondamentale. Attinenti al ruolo, certo, ancora adesso io appunto se penso a Ribera penso a un grande numero 10 per dire, esatto. Quindi sì, certo. Di questo e di più, tra l'altro, poi per avere una contemporaneità invece caffè e paglia dalle 10:30 con Mingo & Company. E intanto io ti ringrazio tantissimo, ti aspetto in redazione e ti auguro una buonissima giornata. Grazie. Buona giornata a te e a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. L'abnegazione e la professionalità. Già. Di ascoltarci. Esatto. Ciao. Ci vuole mestiere. Ciao. un altro aspetto è che appunto non è la solita situazione del ragazzo che viveva nelle situazioni, è stato strappato al degrado, no, è un atleta, è un ragazzo che ha fatto una scelta e che l'ha portata avanti con grande serietà e quant'altro, appunto, ed è un ulteriore aspetto che mi ha affascinato nel seguire le gesta di questo atleta. Io ringrazio tanto Sergio Fanti e, come vi ho detto, vi porterò nello spazio insieme alla lettura e non solo, più che altro insieme alla musica di Brian Eno. Brian Eno, Ambient, the music for film, music for airport, qui con Harold Budd che stiamo ascoltando, ci farà da base fino alla conclusione. Oltre che l'articolo su Brian Eno a pagina 12 del Manifesto, già ne abbiamo parlato con altri suoni, aggiungiamo che in ambito ambient la sfera emotiva, le capacità che possiamo trovare in scrittura come elettronica, psicadelia, la stessa exotica e perché no anche nel jazz, alcuni dischi di Miles Davis ad esempio, di Pharoah Sanders, è una capacità ambient che va anche nell'aspetto etno con John Hassell, per citare altri nomi. Insomma, è una musica che, se ci pensiamo, va a prendere l'aspetto emotivo, va oltre quello che è la tecnica, va oltre quello che è una scrittura da pentagramma, ma è qualcosa che veramente dà colonna sonora onirica, spaziale se vogliamo anche. H2O, la formula dell'acqua, e la ricerca per 5.560 pianeti dove appunto si potrebbe sviluppare la vita. Siamo a pagina 15, anche se è difficile capire il visual data della lettura del Corriere della Sera, in questo caso vale la pena sforzarsi un pochettino. Le lune di Giove, i satelliti di Saturno, la costellazione del Cigno, la costellazione della Lira e altri pianeti o astri dove troviamo, certo a noi sembra impossibile che si possa sviluppare la vita, dove vi è solo sostanza simile al ghiaccio, dove vi è semplicemente un oceano profondissimo, ma non è detto, magari forme di vita si possono sviluppare pur essendo completamente, diametralmente diverse, opposte da noi. Come si legge questo visual data? Tutte queste sfere possono portare un po' in confusione, però per portarne anche solo un esempio vi parlo di Kepler 452, che non è la compagnia teatrale ma è un mondo di dimensioni vicine alla Terra, situata nella zona di una quantità di stelle simili al nostro Sole, è circa il 60% più grande della Terra, con un'orbita, pensate, di 365 giorni e ha una attività di circa 6 miliardi di anni e non è all'interno del sistema solare, quindi è un esopianeta, così viene definito, ma dove allo stesso tempo a quanto pare potrebbe tra ghiaccio e vapore svilupparsi un'altra forma di vita. Ed è una speranza, è una ricerca, indubbiamente, su queste note, su questo articolo, su questo Visual Data. Tra l'altro gli articoli a pagina 12 di Alias del Manifesto sono un ulteriore approfondimento su Brian Eno e le collaborazioni, David Toop, artisti similari, Harold Budd, ne cito altri, John Hassell, lo stesso David Byrne, e come l'ambient sia diventata poi, grazie a questo grande genio, una cosa più estesa in intersezione anche di altri generi, uscendo un po' da un sistema solare della musica. Io vi do appuntamento a domani, ringraziandovi per l'attenzione. Domani il Mood Groove con i giocatori più sexy. Ma cosa intendiamo per giocatori sexy? Beh, ne parleremo domani con Paolo Onofri da remoto, Pietro Rossi in studio, ascoltatrici e ascoltatori su Radio Città Fujiko per la rubrica del martedì. Per il 2023 è l'ultimo lunedì di programmazione in magazine, e quindi dai magazine i più cari auguri di buone festività e di buon inizio 2024. A domani invece con il Mood Groove. A breve Liberi Dentro, anticipati dalle Deep Enciclopedico. Alle 7 il Breakfast Club. A domani per la prima colazione in diretta. E dal vostro William Piana un coloroso abbraccio, un buon ascolto e un buon inizio settimana. Ciao a tutte, ciao a tutti. Yeah.